Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata in quest'Italia fatta di resistenze alla mafia, con i fatti e non con le chiacchiere. Anche i sindacalisti sono in prima linea. Voi sapete che già nel recente passato in questa trasmissione sono stati ospiti dei sindacalisti che operano in maniera estremamente complessa sul territorio, segnatamente in Calabria e in Puglia. Oggi raccontiamo la storia di Vincenzo Liarda, sindacalista di Polizzi Generosa. Siamo alle porte di Palermo. È un sindacalista di quelli magari meno noti al grande pubblico, ma che fa, diciamo, del rigore, della trasparenza, dell'onestà, della legalità e della lotta alla mafia uno stile di vita, ed è per questo che da anni paga anche con continue minacce. Il suo nome è legato a stretto giro di posta, è legato a doppio filo alla vicenda del feudo di Verbuncaudo, che è una proprietà confiscata a chi? Beh, quello che veniva indegnamente chiamato il Papa di Cosa Nostra, Michele Greco, uno dei tanti qua che finalmente sono stati assicurati alle maglie della giustizia. Per uno che si prende 100 scappano, continuano a proliferare peggio dei conigli, ma in ogni caso il compito dello Stato è quello di reprimere, e mi piacerebbe che educasse e facesse molta più prevenzione, che è nelle mani dei singoli, spesso, come Vincenzo Liarda. Buongiorno Liarda. Buongiorno a lei. Allora, qual è il suo impegno quotidiano? Ci racconti la sua giornata tipo. Allora, la mia giornata tipo, diciamo che rientra, se vogliamo, meglio, cerco di farla rientrare nella normalità. Certo. Non più come prima, evidentemente, per la ragione che lei poco fa ha espresso. Vive sotto scorta, immagino. Chiaro, sì, è chiaro, ecco. Che mentre prima mi alzavo e decidevo di andare in ufficio, di andarmi a prendere un caffè con gli amici, oggi lo faccio, o cerco di farlo sempre, però è chiaro che con molta più attenzione. Certo. Che bene, anche perché, come lei diceva, vivo sotto scorta e quindi anche i movimenti sono abbastanza, se vogliamo, ponderati. Quindi mi alzo, vado in ufficio quando sono qua a Polizzi, me ne vado a Perle di Sottana perché c'è il centro zona della CGL, dopodiché torno a casa normalmente quando ci sono altri impegni a pranzo, e nel pomeriggio vado in ufficio CGL sempre a Polizzi Generosa. Ecco, ma perché il suo nome... Intanto, prego. Di tanto in tanto mi prendo anche il lusso, perché per me è un lusso, ma soprattutto una grande passione, di farmi un allenamento con i ragazzi. Qua abbiamo una squadra di calcio. Benissimo, benissimo, lo sport fa bene. Allora, perché il suo nome è così strettamente collegato alle vicende di questo feudo, dove si combatte una battaglia che non è una battaglia locale? Attenzione, non è una battaglia locale, perché togliendo il segno del comando a questi mafiosi, a queste persone di bassa risma, di zero valore, si combatte la vera battaglia di legalità. Sì, io praticamente le dico, per me parlare del feudo o l'impegno lì in quel bene, come dire, è stata un'affermazione di quello che in effetti è stata una scelta di vita che ho fatto non ora ma molto tempo fa, quello di schierarmi per la legalità. Nel momento in cui lì si proponeva quello che poteva essere un momento di sviluppo nella legalità, allora io non ho avuto mai esitazione, quindi ne abbiamo abbondantemente parlato, cercando di coinvolgere anche le forze più sane, in modo tale che in effetti tutto questo, a seguito della legge, la 109 del 96, diventasse realtà. Certo, comunque questa confisca poi alla fine non è che abbia ancora visto la luce, il feudo è ancora lì ma non è stato assegnato. No, il feudo è stato assegnato, lo devo dire, per due volte, una volta ai carabinieri, per poligono, e poi nel 2007 al comune di Polizzi Generosa. Appunto è lì che grava un'ipoteca, e quindi di volta in volta questa ipoteca blocca quello che dovrebbe essere poi, ecco, l'assegnazione dei lavori, appunto, diciamo, appunto. Di sviluppo. Sì. Senta, una domanda che magari la colpirà, però io credo che tutti i corpi sani abbiano in realtà però dentro di sé anche dei batteri, come dire, dei virus dannosi. Le chiedo quanto viene accompagnato nel suo processo di legalità dai suoi compagni sindacalisti, CGL, ma anche gli altri, CISL e UIL. Quanto quindi la sua battaglia è sposata, anima e corpo, così come la sposa lei? Allora, è chiaro, io c'è anche, come dire, una motivazione passionale rispetto al territorio, vedere in effetti una risposta che dà anche sviluppo, come dicevo poco fa, nella legalità. Ma devo riconoscere a pieno titolo e merito che la CGL mi ha dato una grande mano. Infatti mi ha anche impegnato, non ho appena capito tutta la situazione, in quello che in effetti è un progetto più ampio a livello nazionale, creando un osservatorio specifico sui beni confiscati alla mafia. Quindi devo dire che si è ben inserita in quello che in effetti è e dovrebbe essere una risposta anche in termini di responsabilità verso la politica cui rappresenta. No, su questo qua devo riconoscere che la GGL ha avuto molta, molta sensibilità. E questo mi fa davvero piacere, perché essere soli ed isolati è ciò che di peggiore possa capitare a chi combatte guerre, vere e proprie guerre di legalità, come il suo caso e come il caso di migliaia di cittadini, centinaia di migliaia di cittadini in questo paese. Io ringrazio Vincenzo Liarda, sindacalista di Polizzi Generosa in provincia di Palermo, uomo che ogni giorno combatte con i propri comportamenti quel virus dannoso e mortale per l'intera economia e società italiana, che è Cosa Nostra, ma lo stesso discorso vale ovviamente per le altre associazioni criminali. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella e in studio Laura Fagin e Roberto Calullo. Vi auguro una buona giornata.